giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I cori razzisti al Friuli per il portiere del Milan Maignan, che è anche portiere della Francia, hanno fatto il giro del mondo. La partita è stata sospesa, quindi il Milan rientrato in campo ha vinto 3-2, ma il presidente della FIFA Infanti chiede la sconfitta a tavolino. Nel frontale, nella notte a Zoppola, ha perso la vita un uomo e tre sono i feriti, di cui uno in serissime condizioni. I socialisti isontini ricordano Loris Fortuna, vicepresidente della Camera, ministro e padre della legge sul divorzio nel centenario della sua nascita. Il Trieste Film Festival dedica il pomeriggio alle cineaste germanofone, mentre alla Rossetti Isabella Rossellini porta in scena Il sorriso di Darwin. Buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Nada Cioc. L'avete sentito dai titoli, il portiere della Francia, che veste anche la maglia del Milan, insultato allo stadio Friuli per il colore della sua pelle. L'episodio razzista che ha portato alla sospensione di 5 minuti della partita Milan-Udinese ha fatto il giro del mondo. A Maignan ha chiesto scusa il ministro Abodi, il presidente della FIFA Infantino chiede la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si sono resi protagonisti di atti di razzismo, e l'Udinese in una nota uscita poco fa esprime solidarietà al portiere e il servizio. Una prima volta imbarazzante per lo stadio Friuli. Al minuto 34 Udinese-Milan è sospesa per cori e gesti razzisti nei confronti di Maignan. Il portiere rossonero denuncia all'arbitro Maresca l'offesa del verso della scimmia da parte di alcuni tifosi della curva nord. Maignan lascia il campo e con lui anche tutto il Milan insieme al tecnico Pioli. Una situazione mai vissuta dalla società friulana, che tra titolari e panchina contro il Milan conta 22 giocatori stranieri su 25. Federico Balzaretti, direttore sportivo udinese. Noi siamo, credo, il club più multietnico che ci possa essere in Europa. Facciamo dell'integrazione la nostra forza, la nostra educazione, per cui chiaramente la procura sta indagando, la procura avrà tutte le immagini possibili e chiaramente saremo molto, molto severi, perché questo è un club che non tollera sicuramente nessuna forma di razzismo. La condanna all'episodio parte dal vertice della FIFA. Il presidente Infantino lo descrive come un gesto ripugnante e inaccettabile, chiedendo il divieto d'accesso allo stadio per chi lancia insulti razzisti. Per il ministro dello sport Abodi, il no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle. La nota dell'Udinese Calcio esprime solidarietà a Maignan e volontà di collaborare con gli inquirenti. Sono in corso le indagini della questura di Udine per individuare i responsabili di quanto accaduto. Un episodio che fa passare in secondo piano la sconfitta dell'Udinese, che dopo essersi trovata in svantaggio per il gol di Loftus-Cheek, alla ripresa della gara segna con Samardžić e nel secondo tempo va in gol con Toven. Il sogno di un altro successo contro il Milan è spezzato però dalla rete di Jovic al minuto 83. La squadra di Cioffi arretra, trema e subisce il gol vittoria milanista di Okafor, che fa calare il sipario sulla brutta pagina di storia del club friulano. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ma arriva il commento anche del portiere della Francia Maignan, che dice all'Udinese, alla procura: complici se non farete nulla. Oggi, scrive, un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità, e gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto, ma che hanno scelto di rimanere in silenzio, siete complici. Le autorità e la procura, con tutto quello che sta succedendo, se non fate nulla sarete complici anche voi, così in un post Maignan. Veniamo alla cronaca: è deceduto in ospedale a Pordenone l'uomo che era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Ponte Bana, all'imbocco del ponte sul Meduna tra Zoppola e il comune capoluogo della destra Tagliamento. Nello schianto frontale tra due automobili avvenuto verso le 3:30 di questa mattina erano rimaste ferite altre tre persone, una delle quali è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, dove è ricoverata in prognosi riservata, mentre le altre due persone sono state portate in ospedale a Pordenone e non sarebbero in pericolo di vita. La Ponte Bana è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 di questa mattina per consentire i rilievi da parte dei carabinieri. I disturbi alimentari sono in continuo aumento. Con il finanziamento straordinario del governo per fronteggiare queste malattie, il centro specializzato a Pordenone ha potuto assumere due persone. Le diagnosi di disturbi alimentari sono praticamente raddoppiate nel post pandemia, avvertono gli esperti. Per sensibilizzare sul tema si tengono eventi come lo spettacolo teatrale di ieri al magazzino 26 a Trieste, Il vestito blu, seguito poi da un dibattito. Tra i promotori dell'iniziativa la psicologa Martina Earle, che si è specializzata proprio sui problemi legati all'alimentazione come anoressia, bulimia e altre forme che prima erano meno comuni. Abbiamo visto soprattutto delle situazioni di bambini molto piccoli che hanno iniziato ad avere dei sintomi proprio di avversione o verso il cibo o paura di vomitare, quindi un qualcosa che prima erano veramente delle casistiche molto, molto rare. Dopo le polemiche per il mancato rifinanziamento e legge di bilancio del fondo da 25 milioni sui disturbi alimentari, il governo ne ha istituito uno straordinario da 10 milioni. Le risorse hanno avuto un effetto concreto anche in regione. A Pordenone, ad esempio, il centro specializzato dell'azienda sanitaria ha potuto assumere due operatori. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel centenario della nascita di Loris Fortuna, padre assieme all'onorevole Baslini della legge sul divorzio, i socialisti della provincia di Gorizia hanno onorato la sua memoria di libertario, partigiano osovano e ministro della Repubblica con la deposizione di una ghirlanda di garofani presso la targa sulla parete esterna del carcere di via Barzellini, dove Fortuna fu rinchiuso nel 1944 e condannato al campo di Bernau in Germania. Vicepresidente della Camera, ministro, leader dei socialisti del Friuli Venezia Giulia, ha ricordato Aleš Vatriš, è stato protagonista di numerosissime battaglie nella difesa e nell'ampliamento dei diritti civili e siamo sicuri, ha detto, che in questi anni sarebbe stato in prima fila a battersi anche per una legge sul fine vita, una norma che lui aveva impostato ma che non riuscì a completare. 12:21, il meteo, cielo sereno sulla regione, a Trieste 8,5 gradi, Udine 6, Gorizia 5, Pordenone 4, 4 gradi, Piancavallo 0 gradi, Tolmezzo 1 grado, Tarvisio meno 3, Forni di Sopra meno 4, Sappada meno 7 gradi, sullo Zoncolan e sull'Ussari meno 1 grado, a Grado Lignano 4 gradi. Le previsioni dal pomeriggio: velature ad alta quota, lo zero termico risalirà da 1000 metri fino a oltre 2000 metri di quota nel corso della giornata. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvoloso per nubi medio-alte, lo zero termico risalirà ulteriormente nelle ore centrali della giornata fino a 3000 metri, ma in seguito scenderà velocemente di nuovo a 1000 metri di quota. Nella notte tra lunedì e martedì possibili deboli precipitazioni sparse. Trieste Film Festival, per la retrospettiva dedicata alle cineaste germanofone, propone al Miele alle 16 il film Prima dell'alba di Maria Schrader, ispirato all'omonima novella di Stefan Zweig. Seguirà Il punto cieco di Ayse Polat del 2023, ambientato in una città nel nord-est della Turchia, e ancora alle 22 il film di Nora Finchheit Anomalia di sistema, in anteprima italiana a Trieste. Al Rossetti invece alle 16 seconda replica di Isabella Rossellini per il suo spettacolo Il sorriso di Darwin. Il terzo settore si sta adattando alle nuove norme che lo regolano dal punto di vista fiscale e giuridico. Molte associazioni però ancora hanno dei dubbi. A parlarne a Palmanova questa mattina, su invito della Proloco locale, è Gabriele Sepio, estensore dei decreti del terzo settore. Parliamo ancora di sport. In Serie C la Triestina è rientrata da Vercelli vincente con 3 punti in classifica che la portano al terzo posto. Gli alabardati hanno giocato un buonissimo primo tempo, ma dopo la rete di D'Urso seduti sugli allori hanno lasciato spazio ai padroni di casa che li hanno raggiunti con Houdi. A cambiare le sorti della partita nel recupero del secondo tempo è l'Azraq. Tesser loda il gioco di squadra e Petrasso e Lescano, che dice, hanno fatto reparto per 90 minuti. Prossimo turno domenica contro la Pergolettese. Basket in A2, Udine gioca sul parquet di Orzinuovi stasera alle 18 per la 20ª giornata di campionato. Friulani terzi in classifica, reduci dalla sbornia del derby vinto in casa contro Trieste. Intanto, dopo la vittoria di Verona su Piacenza nell'anticipo di ieri 70-64, gli scaligeri agganciano Trieste al quarto posto nel girone rosso. Volley in A2, ritorna la vittoria in casa di Tinet Prata, che conquista 3 punti al Palacrisa Fulli contro Cantù, partita non facile, giocata con buon piglio dai ragazzi di Boninfante, che ha potuto contare sulle ottime prestazioni di Petras e Terpin. I risultati dei 3 set: 26-24, 25-22 e 27-25. Rugby femminile in Serie A, il Forum Iuli sfida il Valsugana Rugby Padova questo pomeriggio alle 15 sul campo di Villa Pullin a Montebelluna. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Lorenzo Gerlinzoni e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.